Infatti, buon Cosi invece non manca mai. Ciao ragazzi, Flavio, dove sei stato? Un piccolo malano di stagione, coach. Okay. Anzi, fuori stagione, diciamo. Conosco la materia. Ecco. Non è vero. No, non è vero, coach. Coach, oggi abbiamo un presidente, tutti sono attenti. Chi c'è? C'è Marco Atripaldi, presidente anima di Biella. Ciao Marco, cavolo, grazie. Atripaldi è super felice adesso, ragazzi, ha sbaccato il Treviso, che cosa vuole. Buongiorno coach, tutto bene? Sono un po' più felice dell'anno scorso, se ti ricordi. Direi di sì. Senti, visto che questa era la domanda che Marco volevo farti, ma tra un po' me l'ero scritta, ma tra un po' te la faccio subito. Avete vinto a Treviso una soddisfazione grande, non una vittoria qualunque per te, per Biella, ma soprattutto per te. Non una vittoria qualunque per due motivi. Il primo è perché abbiamo centrato l'ottava salvezza matematica consecutiva in Serie A, e sai che per Biella questo è uno scudetto. E per me, perché per una volta sono uscito dal palaverde col sorriso, visto che l'anno scorso non mi è capitato troppe volte, purtroppo. 800240024 per i nostri ascoltatori, messaggi 349-238-6666. Ne aspetto tanti, anche perché i playoff sono cominciati. Coach, i playoff sono cominciati ieri sera a Bologna. Sì. Sul campo la Virtus, che ha giocato una grande partita, lanciando a Siena in prospettiva, secondo me, messaggi tecnici e messaggi fisici importanti. In sala stampa Boniciolli ha detto: siamo al livello di Siena, adesso è ufficiale, ho questa certezza, l'obiettivo là in fondo, dopo una strada piena di curve, di salite e di discese, c'è lo scudetto. La differenza l'ha fatto solo quel rimbalzo che abbiamo lasciato, che abbiamo regalato a Siena. Pianigiani ha fatto il minimalista, ma secondo me Siena ieri ha sputato sangue per vincere e per mandare pure loro a Bologna un messaggio. Insomma, e poi quello che è successo in campo, tra il pubblico, Sabatini che ha chiesto rispetto per la storia della Virtus. I playoff sono cominciati ieri sera. È chiaro che in una super grandi partite come è stata quella ieri, ci dispiace a tutti noi vedere qualsiasi cosa che non so riesce a detrarre dalla bellezza del gioco che si è visto, perché io ho visto una grande partita, cioè proprio hanno giocato, hai detto tu, hanno sputato sangue, hanno fatto una grande partita, e quindi ci dispiace vedere qualcosa intaccare questo qui. Mi dispiace molto, perché è stata una grandissima partita, per telespettatore, per il pubblico, per tutti. Senti coach, volevo chiederti questo, entriamo in argomento arbitri, perché tanto poi qualcosa dovremo parlarne oggi pomeriggio. Hai la sensazione che quest'anno insomma il livello non sia come quello degli altri anni? Insomma, c'è stato qualche errore di troppo, a partire da quello che ha causato la ripetizione di Fortitudo a Montegranaro, per arrivare a queste c'è qualche sospetto di troppo, ecco, che normalmente nella pallacanestro non c'è. Allora, voi volete le risposte flash, okay? Per cui sono famoso, ma questa non è una risposta flash. Io dico che guarda, e tutti noi eravamo andiamo da 2 a 3 arbitri. Non so cosa ne pensa Marco, ma io penso, da quando siamo andati da 2 a 3, abbiamo perso i grandi arbitri di grandi partite, di grandi personalità. Cioè non c'è più Zanon Gorlato, Vito Durante, Ardito Compagnone, c'è Filippone Cagnazza, e sto dimenticando altre, okay? Cioè, in cui c'era un chiaro primo arbitro e un chiaro secondo arbitro, e tutto era molto più chiaro. Non ho questa sensazione di grande chiarezza oggi. Magari sono solamente io a pensare così, però no, è la mia sensazione. Coach, sono abbastanza d'accordo. Mi sembra che anche da un punto di vista tecnico, proprio sulla divisione dei ruoli, la divisione delle zone, non eccetera, ci sia un po' di confusione, forse. Ci può essere, perché quando c'era uno e l'altro, cioè, o io e te, non c'era dubbio, il terzo, a chi lo prende? Quell'altro, questo qui? Io, guarda, Marco, ti rubo un secondo per dire anche a tutti voi, io, come voi sapete, su Sport Italia, infatti vado adesso, quando chiudo qua, vado a Sport Italia a fare una delle partite del passato. Mm-hmm. L'ha fatto il finale del 75, 34 anni fa, dove due arbitri, dovevate vedere l'arbitraggio, perfetto, un grande giocatore, Rick Barry, passi, ma passi come passi, non come oggi che permettono tutto, ha strisciato il piede perno, passi, Wes Unseld, una montagna, ha fatto uno sfondamento, cioè hanno fischiato come se due arbitri, era Richie Powers e Manny Sokol, quindi io sono per i due arbitri, però per rispondere alla domanda, Sì, molte più preoccupazioni per gli arbitri oggi, non solamente in Italia, anche in Eurolega e anche in NBA, alla grande. Mi permetto di dire molto più in Eurolega che in Italia, se devo dare, se posso esprimere un giudizio, nel senso che alla fine comunque il livello medio dell'arbitraggio italiano, soprattutto se rapportato a quello europeo, è più alto. Cioè, quest'anno abbiamo avuto dei picchi di errori un po' preoccupanti su situazioni specifiche legate anche secondo me alle tecnologie eccetera, sulle quali secondo me bisognerebbe fare un passo definitivo. Le tecnologie ci siano, allora ci siano sempre. Certo. Well, come diceva Bianchini, non voglio, quest'anni fa l'ha detto, non voglio sentire che gli arbitri italiani sono più bravi in Europa, non giochiamo mica in Bulgaria, ha detto lui. Quindi cioè, anche qui se il campionato italiano viene spacciato da tutti noi, e io penso che sia così, sia di altissimo livello, allora anche gli arbitri devono essere di altissimo livello, questo è matematico. Ma tornando a quello che è successo ieri sera, il gioco delle parti diceva, iniziato Bonicioli che dice non voglio sentir parlare di arbitri, non faccio il cronometrista, perché la spiegazione che è stata data da Matteoli, che per quel fischio prima, dopo la sirena, ma poi se volete ne parliamo, Bonicioli ha detto abbiamo perso per quel rimbalzo che abbiamo lasciato nelle mani di Siena, e quel rimbalzo, se sei una grande squadra, lo prendi tu e non c'è nessuno che te lo può rubare. Esatto. E questo non fa una piega. Poi ovviamente il gioco delle parti, è arrivato Sabatini, vogliamo rispetto per la nostra storia. Il discorso è questo: c'è il precedente della finale di Coppa Italia, sappiamo com'è andata, c'è la partita di ieri sera. Secondo me, Virtus Bologna, Mensana Siena potrebbe essere la finale scudetto. Insomma, l'aria rischia di diventare un po' pesante. Yeah. O no, coach? Temo questo, cioè non ho un giudizio preciso, perché onestamente nelle replay che ho visto io non ho visto con grande chiarezza se il tempo, perché io stavo cercando lo stop lamp, hai capito? Quella, sì. Le luci rosse che si tendono come l'albero di Natale. Non ho notato, cioè non ho potuto vedere questo, quindi un mio giudizio su questo sarebbe superfluo, perché non sono del tutto informato sulla cosa. Ma è una tragedia vedere le cose decise per un millimetro, per un mezzo secondo, per una frazione di secondo, così. Mi dispiace per questo, perché due ottimi, grande squadra, ha fatto una bellissima partita ieri sera. Aver tutto parlare oggi, anche noi, poveri noi, del fatto che è stata una decisione tecnica, se vogliamo dirlo così, a decidere tutto, mi fa dispiacere. Marco, si sente però, quando giochi contro Siena, il peso di Siena, l'importanza di Siena, la grandezza di Siena? Beh, perché sì, questo dicono a Bologna, insomma. Ma si sente. Io, sai, sto in una squadra piccola, quindi noi il peso lo sentiamo spesso dei nostri avversari da questo punto di vista. Siena intanto ha un peso specifico sul campo diverso dalle altre squadre, quindi già tu patisci questo. Poi è chiaro che in qualche modo viene, non ti dico premiato tutto questo, perché forse è un termine esagerato, ma sicuramente tenuto nel giusto conto, diciamo così. Però ora la Virtus è la Virtus, e quindi adesso io credo che la Virtus abbia sempre goduto di grande rispetto, ecco, ha avuto l'anno brutto quando, insomma, certo, è stata retrocessa, ha avuto tutti i suoi problemi economici e finanziari, ma mi sembra che abbia sempre goduto del giusto rispetto. È chiaro che era uno scontro oggi fra titani, forse fra le due probabili finaliste, tra la squadra decisamente più forte del campionato almeno da tre anni, è quella che si è attrezzata per essere l'antagonista, no? La sfidante principale. Normale che ci siano queste schermaglie. L'importante è, credo, che poi si ritorni al gioco. Io sto più con Bonicioli, voglio dire, non possono lasciare quel rimbalzo offensivo lì sul tiro libero. Non c'è dubbio. Quello che abbiamo pensato tutti quelli non coinvolti nel tifo. Poi ti dico con altrettanta sincerità: se l'arbitro fischia fallo ed è fallo, bisogna tirare i tiri liberi. D'accordo. Se l'impressione è che questo sia avvenuto nel tempo regolamentare, si tirano i tiri liberi. Ecco, questo è il discorso. Capisco Bonicioli quando dice sì, però mi sono preso, come dire, è peccato mortale, vero coach? Sì. Lasciare il rimbalzo offensivo sui tiri liberi. Ah, guarda, non c'è niente di peggio. Credo anch'io. Ho visto, come tutti voi, partite decise. Io ricordo una volta che Alea, proprio a Bologna, contro la Virtus, è venuto Marcelletti alla Nava, Verona. e Della Vecchia ha preso un rimbalzo dalla seconda posizione, ridata la palla a Bonora, penetrazione, passaggio a qualcuno, canestro, vince il Verona, perde Virtus. Se io sono allenatore del Virtus, c'è da tenermi lontano dai coltelli, hai capito? C'è proprio un rischio di morte lì. Beh, ieri sera Borigiola ha tirato fuori invece il famoso canestro di Alvertis contro l'Italia, quando lui era assistente di Tani vicino nazionale, ha detto all'ultimo secondo, lo ricordate quel canestro dall'angolo? E che ci ha costato, tanto, e dice me lo sogno ancora tanto, di notte. Tanto. Ma lì io che sono amico di Tanjević posso dire questo qui, e se tu parli con Tanjević, lui è molto franco, molto aperto in queste cose qui, lui ha fatto il pressing 3-1-1 tutto campo, che lì ci voleva quello che poi, non sono allenatore in campo io, quello che io chiamo io pressing ombra, cioè di stare uomo a uomo senza far fallo, senza provocare un fallo dell'arbitro, però farli rallentare l'avanzamento della palla. Invece lui ha lasciato spazio libero e passaggio lungo e finita così. Coach, ti giro la considerazione di Bonicioli. La Virtus Bologna è a livello di Siena anche mentalmente? È in tutto e per tutto a livello di Siena oggi? Ma forse lui esagera un po', perché la partita è stata giocata a Bologna con la Virtus carica a 1000. A Siena forse non ha ancora smaltito l'eliminazione dell'Eurolega, giocava in trasferta, quindi per un po' di tempo sotto tono erano anche sotto di 10, ok? Quindi non quello che aspettiamo da Siena. Bisogna aspettare i playoff, perché può anche cambiare molto, cioè Siena deve riprendere la grande forma che aveva durante l'anno, e la Virtus deve continuare la sua salita, perché se la Virtus si ferma qua non vince niente, ok? Certo. La Virtus deve, guarda, il segreto della pallacanestro è di migliorare da partita in partita, da settimana in settimana, da mese in mese, dal primo tempo al secondo tempo, ok? Quindi la Virtus ha questo, cioè, siamo qui oggi, ma se ci fermiamo qui, ragazzi, non vinciamo lo scudetto, abbiamo perso in casa, cioè bisogna continuare a migliorare, dove non so. La mia impressione del Virtus è che contro Siena magari gli manca il pivotone, cioè adesso sto cercando. Ma sono atletici, però ieri i penetratori, gli atleti di Bologna hanno fatto male alla difesa di Siena, che ha giocato un po' come una squadra NBA, primo tempo a guardare gli altri, poi nel secondo tempo in modo diverso. Se posso trovare un difetto, è che dipende molto anche tecnicamente e tatticamente dalle lune di Boykins. Boykins penetra, inventa, e gli altri guarda, stanno un po' a guardare. Boykins deve stare attento, perché noi vediamo la partita, no? Non so, dove lui entra e inventa una geniata, ma ha avuto grande fortuna a Roma. Entrata, non sapeva cosa fare, era in aria, buttata la palla, persa, recuperata da lui, canestro da tre. Fortuna, ok? Perché molte volte lui entra e, oh, sono in aria, cosa faccio? Cioè, io vorrei vederla lui, e certamente Bonicioli, idem con Patate, ehi, Boykins, costruiamo un po' di gioco, nessuno ti chiede, devi essere tutto da solo, questa è la mia impressione, ok? E poi Siena, volevo l'ultimo commento su di loro, forse, dico forse perché non ho una visione chiara, forse una squadra molto più adatta al campionato italiano che l'Eurolega, quindi in playoff attenzione a loro. Io coach dico questo, e voglio fare qui dico che se Siena ritrova la condizione di qualche tempo fa, la Virtus non è ancora a livello di Siena. Credo che questo sia una questione tecnica, ma soprattutto fisica, del calo di Siena di questo ultimo periodo. Sì. Marco, che ne pensi? Sì, penso che loro abbiano anche avuto una bella botta comunque dal discorso dell'Eurolega, da come è maturata la speranza dopo gara 2 e soprattutto la gara 3 in casa, che è stata abbastanza pesante come sconfitta. Quindi è normale che abbiano, poi hanno un calo e vincono sempre lo stesso, quindi di questo stiamo parlando. Per quello che riguarda la Virtus, io interpreto anche l'atteggiamento di Claudio Sabatini alla fine, chiedere rispetto, siccome Claudio è un uomo molto intelligente e soprattutto che guarda avanti, secondo me strategicamente si sta preparando a una finale scudetto, quindi è chiaro che sta cominciando a mettere, come dire, a preparare il terreno. Per quello che riguarda Siena, anche tornando al discorso di prima, io non credo che in Italia ci sia sudditanza psicologica, no? Non è questo. Siena sicuramente ha un tale strapotere tecnico e fisico, lo ha avuto perlomeno, che poi inevitabilmente condiziona e porta a suo vantaggio, ma è una cosa che si guadagnano sul campo. Questo secondo me è la reale lettura. Sì, succedeva anche per la tua Milano, perché tu hai avuto una squadra che più di Siena ha dominato un decennio, una squadra di enorme personalità, una squadra che quando serviva usava il bastone perché faceva della difesa a volte anche intimidatorio, tu lo sai, il suo marchio di fabbrica, eppure una squadra che vinceva sempre. quando contava. Esatto, cioè, ovviamente ho avuto la fortuna di avere di grandi giocatori, cioè Meneghin e McAdoo per esempio sono nella Hall of Fame in America e D'Antoni Allen in New York Knickerbockers. Bisogna avere il materiale umano, però erano anche dei loro quasi si dice self-starters, autogestioni, capito? Automotivatori, cioè, io ho sprecato poche parole con loro, la gente dice Peterson ha detto sputare sangue, cioè, l'ho detto però non c'era neanche bisogno di dirlo, loro erano già lì per farlo senza una parola di me, quindi ho avuto questa fortuna qua. Però anche noi abbiamo, anche io personalmente ho lavorato molto su questo, come affrontare le cose, come fare il salto di qualità, come affrontare tre impegni, cioè Coppa Italia, campionato, i playoff anche e la Coppa dei Campioni ai tempi che si chiama Eurolega, cioè, uh-huh. Quindi come gestire gli allenamenti, come scegliere i giocatori, come centomila cose che vanno insieme che mi costerebbe una settimana da spiegare, però abbiamo prestato grande attenzione a quelle cose che uno li vede e sembra cose scontate, invece non sono scontate. Coach, grazie, ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao amici, Marco, un abbraccio, okay? Ciao coach, ti aspetto nel nuovo palazzo di Biella. Ciao, hai sentito che è bellissimo e tanti complimenti per questo. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Grazie coach, tra poco ne parliamo, andiamo un po' più in profondità nel discorso di Biella che insomma, secondo me è un grande capolavoro di artigianato sportivo, poi vi spiego perché. Palla spicchi. Torniamo sempre con Marco Tripaldi, presidente di Biella, e torniamo anche con gli ascoltatori che sono due. A Giancarlo da Bologna si è aggiunto Paolo dalla provincia di Vicenza. Subito gli ascoltatori. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, salve. Intanto complimenti per la trasmissione, complimenti a Tripaldi. Io sono un tifoso Virtus, ammiro Biella da tempo. Complimenti per quello che stanno facendo, perché la provincia deve sempre emergere, ecco, nel basket. Grazie mille. Ma Biella è veramente un capolavoro. Volevo solo fare Biella. Una precisazione. Sì. Ieri sera io sono abbonato Virtus da tanti anni, da molti anni. Ieri sera ero al Future Show. Devo essere sincero, io sono un po' preoccupato perché la prendiamo forse sotto, non con quella preoccupazione che secondo me ci dovrebbe essere, perché il livello dell'arbitraggio, a prescindere dalla partita di ieri sera, oggi le partite si concludono solo con degli errori arbitrali, cioè il livello, visto che c'era stato lo sciopero, che si era paventato di prendere arbitri non italiani, io non lo so, forse sarebbe meglio, perché se dobbiamo andare a fare delle finali scudetto e il livello dell'arbitraggio è questo, guardi che qua rischiamo ogni competizione, una volta la Coppa Italia. Sì, però non è che il livello di arbitraggio in Eurolega, si diceva prima anche tutt'altro. Con Marco Tripaldi giustamente, quest'anno sia stato particolarmente elevato, quindi sugli arbitri stranieri perché non vedo in giro poi tanti arbitri più bravi dei nostri. Io spero che abbiate ragione, però non so come sarà il finale di campionato se ieri sera, solamente poi vi lascio andare perché la trasmissione ha bisogno anche di parlare di basket, non parlare di arbitri, però ieri sera, a parte l'errore su Boykins, ci sono stati 5-6 episodi che dal meno 7, meno 8 che era Siena hanno fatto ritornare Siena in partita. Cioè, non è solo l'errore di Boykins alla fine, bisognerebbe riguardarla tutta quella partita. Due punti alla Virtus possono essere interessanti in tema di Eurolega, No, ma sicuramente per la Virtus era comunque una partita anche importantissima dal punto di vista della classifica, per Siena era importantissima, ma era importantissima per altri motivi che abbiamo provato ad abbozzare prima, no? Perché a questo punto i playoff sono praticamente iniziati e si tratta di cominciare il mind game, il gioco con la mente dei possibili avversari in una finale scudetto. Però insomma, a tutti gli ascoltatori di Bologna, prima con Marco Tripaldi si diceva le grandi squadre, queste non dico favori, questo venticello insomma se lo porto dietro da sole a prescindere dal nome della squadra, e citavamo un'altra grande squadra, non solo la Milano di Peterson ma anche proprio la Virtus di Messina, no Marco? Sicuro, ma questo è normale, perché la durezza con cui i giocatori stanno in campo, la durezza mentale e fisica, sicuramente è un automatico condizionamento anche degli arbitri ma anche degli avversari, e quindi spesso e volentieri le squadre forti, guardo Siena, magari ha vinto delle partite che un'altra squadra non avrebbe vinto, e le hanno vinte proprio di questo, ne ha parlato Bonicioli alla fine della partita, la durezza mentale, loro erano sicuri che avrebbero pareggiato. e ha pareggiato anche sbagliando il primo tiro libero. E forse è lì che è la differenza, e questo condiziona tutto, condiziona l'ambiente. In fondo, se perdi con Siena, più o meno te l'aspetti, e ti arrabbi di più se perdi con Siena, e dici porca miseria, stavo vincendo, certo, contro una squadra che palesemente è più forte, certo, questo è il punto. Quindi il condizionamento inevitabilmente riguarda anche certe scelte arbitrali. Poi il caso di ieri sera secondo me è clamoroso, questa è un'altra cosa, sì, perché sì, ripeto, se uno fischia anche e il tempo è in corso, si tirano i tiri liberi. Sì, tira, ma non c'è, non c'è discussione su questo, anzi forzando la mano Sabatini poi ha detto fosse stato un mondo perfetto, quel fischio sarebbe stato considerato valido, quindi i due tiri liberi sarebbero stati, anche fosse passato il tempo di 5 secondi, perché il fluido delle cose diceva questo, no? Dopo una partita di quel tipo. Delle belle immagini. No, però piuttosto Bologna adesso non deve cascare nella trappola, in questo lungo confronto che si prospetta con Siena, di guardare troppo agli arbitri, perché ieri ho visto giocatori pericolosamente sull'orlo di una crisi di nervi anche all'inizio della partita, ad ogni fischio. Reazioni molto plateali. È chiaro che il progresso della Coppa Italia fa ancora male, però non bisogna pensare, Bologna non deve cadere nell'errore quando rigiocherà con Siena di pensare troppo a chi ha il fischietto in bocca. No, la verità è che comunque secondo me, come diceva Marco prima, Siena è talmente più forte che in questo momento le altre squadre, Virtus compresa, che diventerà probabilmente forte come Siena, devono sperare di essere al 100% e che vada tutto al 100%, arbitraggio compreso. E a quel punto è chiaro che anche psicologicamente, mentalmente, nel momento in cui ti arriva qualche fischio contrario, sei lì che insomma non è facile, proprio perché secondo me, questo è il mio pensiero personale, sei ancora un filino inferiore dal punto di vista anche mentale rispetto a Siena. Paolo, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un tifoso da Scandone Arettino. Dopo aver premesso i complimenti per la vostra trasmissione, volevo un vostro pronostico sulle possibilità che ha Avellino di giocarsi un posto in griglia playoff. Io penso che la corsa sia tra Cantù, Avellino e Biella. Vorrei anche un vostro parere, oltre che un pronostico. Glielo faccio dare dal presidente a Tripaldi, avverso. Ma effettivamente in questo momento è così, anche se io in tempi non sospetti, cioè un mese fa ho detto che Ferrara, secondo me, visto il calendario, la squadra che forse ha la maggiore probabilità, tenendo conto che i posti sono due, perché in questo momento è settima Cantù, ottava Biella con Avellino a pari merito, noi però abbiamo 2-0 nello scontro diretto con Avellino, e poi dietro ci sono Scavolini, Montegranaro, Ferrara, ma Ferrara sicuramente è la squadra che ha il calendario migliore, tre in casa, scontro diretto con noi in casa, alla Virtus domenica, vedere come sarà la questione, due punti in meno. Beh, Avellino è una squadra costruita per l'Eurolega, adesso non è che, certo, devo compiacere l'ascoltatore che chi chiama, il tifoso di Avellino, ma sicuramente sulla carta come roster forse è la squadra più accreditata, ha avuto i suoi problemi, mi pare anche che li stia superando, quindi siamo tutti lì. Credo che sarà una cosa che si deciderà all'ultima giornata. Sì, nel complesso comunque io posso aggiungere che Avellino è stata una delle delusioni fin qui della stagione, proprio perché Marco Tripaldi giustamente sottolinea, costruita per l'Eurolega e si trova lì a lottare per un posto. L'ha pagato l'Eurolega, il fatto del doppio impegno, un roster non abbastanza lungo per affrontarlo, l'ha pagato in campionato. Andiamo in Piemonte adesso, cominciamo ad avvicinarci a Biella. Torino, Giorgio, buongiorno. Buongiorno, sono a Torino, ma sono di Cittadella, Padova, sì, e sono tifoso del Biella perché mi sono bieleis. Bravo. Per una volta tanto che me ne perdo una vicino a casa per motivi di lavoro. Presidente, dammi il bis per piacere. Adesso sai il problema è che tornare a giocare lì mi sa che bisogna aspettare l'anno prossimo. Non so, però la questione è questa, una delle poche volte che potevo uscire anch'io vincente. Stavolta me la son persa. Mi dispiace, però spero, se l'hai vista in televisione, insomma, si sono divertiti a casa, perché al di là della vittoria abbiamo vinto con autorità, giocando molto bene a pallacanestro, che credo sia anche una bella soddisfazione. Ma Biella gioca quasi sempre molto bene a pallacanestro ormai da anni. Per questo dicevo prima, secondo me un capolavoro di artigianato sportivo. Crescita costante, partendo dalla Serie B con programmi precisi, sempre rispettati, tasselli aggiunti uno dopo l'altro. Marco Tripaldi che ha pescato dei signori americani che poi sono andati a giocare ad altissimo livello in Eurolega, anche lì uno dopo l'altro, l'ultimo tassello appunto il Palazzo Nuovo. In mezzo alle tante chiacchiere italiane, non mi risulta che siano nati poi tanti palazzetti in Italia o tanti stadi in Italia negli ultimi anni, nonostante ci si riempie la bocca, dove facciamo uno stadio nuovo, il problema è il palazzetto, avremo il palazzetto nuovo. Tanto ci sono palazzetti provvisori lì da 30 anni, a Biella invece, detto, fatto, un altro gradino, un altro tassello. Sì, questa è sicuramente una grande soddisfazione. Io lo dico spesso, quando si deve fare il bilancio della vita, della storia di un dirigente sportivo, secondo me sono tanti gli aspetti che si devono guardare. Io sto in un posto che lo scudetto probabilmente non lo potrà mai vincere, ho avuto l'occasione di andare in un posto che lo scudetto l'ha vinto e magari lo rivincerà e non è andata bene, non per questo voglio dire considero la mia carriera di dirigente, no? Una carriera che non ha avuto delle soddisfazioni. Chiaro che quando il tuo lavoro porta, il tuo lavoro mio ma di tutti quelli che ci hanno lavorato, Savio, Verzoletto, i vari presidenti, i dirigenti, a costruirne due, perché noi siamo partiti nel 94 dalla C2 con la costruzione dell'altro palazzo dello sport di Biel, che è stato ampliato tre volte fino ad arrivare alla costruzione di un nuovo palazzo dello sport per le necessità di una squadra che non poteva più giocare nella vecchia scatola di via Paietta. Quindi è chiaro che è una grande soddisfazione ed è qualcosa che resta, perché hai fatto qualcosa per la tua gente, per il tuo territorio, per la tua città e che è tangibilmente, no, visibile da tutti e che è lì. Quindi oltretutto è molto bello, sì. In questo momento non c'è amicissimo dal punto di vista dei risultati, perché traslocare in corsa è un bel problema, sì. Punti di riferimento non ci sono. Ha premiato quella che con grande, devo dire, gentilezza ti ho voluto ricordare prima, è sempre stata costanza, programmazione. Noi in 15 anni abbiamo cambiato 3 allenatori, cercato di non cambiare mai i giocatori. Non è un caso che i giocatori magari da noi facciano sempre bene, è perché trovano l'ambiente giusto, perché li aspetti. Voglio dire, uno come Gist, che domenica, sabato a Treviso ha fatto i numeri, magari finisce in un'altra squadra, lo tagliano la sesta. È già successo con Rhys Gaines, che sembrava una superstar, è andato a Milano. Io l'ho avuto a Treviso l'anno scorso, non era al suo posto, quest'anno sta facendo fatica nel girone di ritorno, ma ha fatto un grande girone d'andata. È sempre questione di ambiente, di pazienza, di aspettare i giocatori. La Radori dell'inizio anno non è la Radori di adesso, è cresciuto, ragazzo di 20 anni, è normale, bisogna avere pazienza. Magari a Biella si può avere pazienza, in piazze più importanti dove i risultati e la pressione sono diversi è un po' più difficile, quindi io vedo anche il buono, no? La maggior facilità di lavorare. Poi lavori con budget risicato e lavori sempre sul filo del rasoio, no? Il rischio di retrocessione, dico sempre. Sì, poi quest'anno passando da 18 a 16 non è stato. Beh, quest'anno è stato drammatico. drammatico. Però dico sempre: la vita di società come Biella è un pendolo che va dal salvarti all'ultima giornata o retrocedere al magari entrare nei playoff. Certo. E ogni stagione tu devi avere i nervi abbastanza saldi per, come dire, saperla affrontare nel modo più sereno, più giusto. Perdona, la differenza poi la fa la bravura e l'abilità. Palla spicchi. Allora, torniamo sempre con noi Marco Atripaldi, presidente di Biella. Abbiamo già cominciato a parlare di Biella, poi lo faremo ancora a lungo in maniera approfondita anche con gli ascoltatori, ricordo 800 24 00 24. Ma adesso abbiamo anche un ospite al telefono. Andiamo nella città dei supplementari e degli orologi della discordia, cioè naturalmente Basket City Bologna. C'è la Fortitudo che l'altro ieri ha vinto la partita della vita e l'ha vinta nei momenti cruciali della partita più importante della stagione fin qui con gli italiani in campo. Coach Cesare Pancotto, buon pomeriggio coach, grazie. Buon pomeriggio a tutti voi e radioascoltatori. Cosa? Coach? Siamo giusto riusciti a salutarlo, però lo ripeschiamo. Siamo riusciti a salutarlo. Intanto, visto che parlavamo anche di Treviso, ci sono, e mi fa piacere sottolinearlo, alcuni ascoltatori di Treviso, ne prendo un paio di messaggi campioni. C'è Alessio da Treviso che saluta Marco Atripaldi e dice un'ottima persona, non è stata solo colpa tua, questo dice. Poi un altro che si firma Massimiliano dice: a Treviso è andata male, ma il ricordo è quello di un'ottima persona e un ottimo professionista. Un saluto da Atripaldi e forza Biella. Quindi insomma fa piacere, dai. Sì, poi non tutti a Treviso giustamente la pensano così, no, chiaro, anche perché la stagione è stata oggettivamente una brutta stagione, però mi permetto di dire si può fare anche di peggio. Si può fare anche di peggio, certamente. Cesare Pancotto è tornato, coach, eccoci. Sì. Buongiorno, saluto Marco, saluto tutti. Ciao Cesare, ciao. Coach, che aria si respira dopo quella vittoria? I primi allenamenti come sono stati? Adesso non, è chiaro che non bisogna fermarsi lì, però quella era la partita della vita. Avevamo una scimmia di 2 metri sopra le spalle, adesso di 1,55 m, quindi non è cambiato niente. Io credo che quella è un preludio per giocare ogni partita come se fosse l'ultima, ogni partita senza domani, perché non abbiamo domani, e credo che questo debba essere uno spirito con cui dobbiamo pensare e affrontare ogni singolo incontro. Io credo che tutta l'Italia del basket, salvo quelli con la Vunera sul petto, stiano facendo il tifo per, ma senza far dispetto a nessuno, per la fortitudo, per il raggiungimento di questo obiettivo, che non può che essere il minimo pensabile, possibile, auspicabile, quello della salvezza. Però io credo che il basket italiano non possa perdere, soprattutto in questo momento, un patrimonio come il derby di Bologna. Allora, il patrimonio più grande è Fortitudo, tutti i suoi tifosi, dalla Fossa a tutti gli altri tifosi, la sua cultura, la sua storia, la sua tradizione e quant'altro. Io credo che poi nell'Italia del basket un derby importante come quello che sia sempre e abbia un effetto di energia, e credo che Fortitudo è una realtà molto importante e molto stimolante per tutto il movimento cestistico nazionale. Marco, da fuori come la leggi la crisi della stagione nera della Fortitudo? Stagione nera, sai, quando va tutto storto. Cesare, quante ne avete perse da 1 a 3 punti? Diversi, ci vorrebbe un pallottoliere. Quindi, sai, poi io la leggo così, l'ho vissuto io un anno, mi sono salvato proprio al Paladozza all'ultima giornata e ne avremmo perse 12, 13 in quel modo lì, all'ultimo tiro, il tiro libero, la cosa, poi gli infortuni, penso a loro, arriva Scales, fa bene 2 partite, sì, fa male alla caviglia. Lo Strober rimanisco fuori anche lui. Bisogna avere grande serenità, grande forza d'animo in questi momenti, perché poi la pallacanestro e la parte tecnica, non dico che non c'entra più, ma passa quasi in secondo piano rispetto a tutto il resto, quindi... Non dico nulla perché chiaramente qualunque cosa, dimmi. Fiducia, determinazione, certo. Coraggio, essere sempre positivi, propositivi, perché le situazioni difficili si affrontano in questo modo. Mi viene in mente il pilota dell'aereo che è atterrato sull'Hudson a New York e ha salvato 154 persone. Ecco, noi dobbiamo essere lucidi, freddi, sotto la massima tensione. Siamo quasi, non siamo così drammaticamente legati ad un atterraggio di fortuna, ma siamo legati sportivamente ad una vicenda che ci deve far rimanere freddi e lucidi sotto pressione. Ecco, coach, diceva prima Carlo che comunque lei questo spirito di cui parlava all'inizio di questa chiacchierata l'ha trovato soprattutto, anche e soprattutto, nei giocatori italiani, da Mancinelli allo stesso Malaventura, lo stesso Lamma, ecco, insomma, mi pare che questi giocatori vi stiano dando tanto da quel punto di vista. Guardi, prima di tutto è una fede, io credo molto nel nucleo italiano, ho sempre creduto nel nucleo italiano, in tutte le squadre che ho avuto l'onore di allenare, sono cresciuti con me tanti giovani giocatori che poi sono andati in giro per l'Italia. Quest'anno siamo la squadra che fa giocare di più gli italiani, quindi proprio una fede, una fiducia, una certezza, perché sono lo spirito, sono l'anima, sono la cultura del pensare, del vivere italiano. In più, avendo noi avuto solo per grande periodo solo due americani molto giovani, dovevano essere da collante su questi due giovani americani per trasmettere, per trasportare la cultura del basket italiano e la bolognesità, che è un aspetto anche significativo di tutto quello che riguarda il basket. Quindi se non credi in questo non riesci a trasmettere. Siccome io credo che lo sport è fatto prima di tutto dagli uomini, questa fiducia riesce a trasmetterla e hai in risposta dagli italiani questi loro valori. Adesso, coach, adesso quante partite mancano? Quante vittorie mancano per la salvezza? Ma non possiamo fare una scaletta minima, dobbiamo pensare al massimo, sapendo che è difficilissimo, cioè non è una promessa, è un senso di responsabilità, ma non è che possiamo dire che 2 bastano, 3 bastano. Noi dobbiamo pensare al massimo, perché oggi noi saremmo retrocessi, se Rieti fa 4 vittorie, Rieti si salva e noi no, quindi dobbiamo lavorare per ottenere il massimo. Si lavora e si ottiene il massimo se cominci già dalla prossima partita. Non mettere 4 partite insieme, ma metterne una alla volta, sapendo che però non hai ritorno. Grazie coach, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi, un abbraccio a Marco. Ciao Cesare, ciao. Questo era Cesare Pancotto. Adesso vedo che abbiamo molti ascoltatori in linea, 800240024, numero verde, Cantù, Milano, Siena, questi prossimi 3 della lista. C'è anche un messaggio: saluti al press a Tripaldi, ci vediamo domenica al palazzetto, porti i bimbi della mia under 15 a vedere il grande basket. Cos'è Biella per gli sportivi piemontesi in questo momento? In una regione che insomma non ha più il treno ormai da anni, il treno deragliato di Torino, sì. C'è Biella. Biella e c'è Casale che sta lavorando alla biellese, se mi permette. Beh, con un ex di Biella, perché l'allenatore Marco Crespi fece da noi la famosa stagione della promozione dalla 2 alla 1, 30 vittorie su 36, quindi lo ricordiamo tutti. E poi andò in Spagna. Biella oggi è un punto di riferimento. lo dico proprio perché vedi portano l'under 15 a vedere. Da quando abbiamo il nuovo palazzo dello sport, un fenomeno per noi importantissimo, al di là del fatto della stupore di averlo riempito questo palazzo, no? Si diceva ci vorranno 10 anni, abbiamo fatto 4.005 tutte e tre le volte. Beh, ma avevi dei dubbi? No, un po' sì, sinceramente non me l'aspettavo di riempirlo subito. Devo dire che molta gente arriva dal Piemonte, scuole basket, bambini, società con cui abbiamo rapporti, ci scrivono. L'ultima volta dal Piemonte c'erano 5 pullman che arrivavano dappertutto, e credo che domenica di nuovo ci sarà questa cosa. Quindi penso che siamo un minimo di punto di riferimento e anche un esempio per dimostrare che ce la si può fare anche se si è piccoli ad arrivare in alto. Basta crederci. Servirebbe Torino? Torino è una grande città che ha avuto una grande storia di basket. Mi pare che in questo momento siano più le divisioni interne a Torino che non la volontà di un progetto unico forte. Certo, a me non è che mi dà fastidio, voglio dire, non è che ci teniamo particolarmente. Noi abbiamo la nostra storia, la nostra identità che è indipendente dal fatto di stare, come dire, in Piemonte, certo, o che ci sia un'altra squadra in Piemonte. Ben venga, anzi, un bel derby, ci mancherebbe altro. Fabio Cantù, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Il mio intervento sarà molto, molto breve, più che altro in questo particolare momento dove tutti, tra virgolette, piangono il fatto che i vivai delle giovanili non sono più, tra virgolette, pieni di giovani talenti. Io volevo fare un elogio, quindi chapeau al presidente di Madibiella, che pochi sanno, loro hanno una squadra in C1, quindi in campionato nazionale, composta da soli giovani, e lo fanno solo esclusivamente per farli fare esperienza, quindi vogliono far sì che i loro giovani, che i loro i giovani talenti possano in qualche modo provare, certo, giocare con i grandi nazionale. Perché giocare con i grandi, con gli adulti, se mi permettete, perché è così che si diventa grandi, che si diventa giocatori veri. L'abbiamo già detto questo in altre occasioni, abbiamo sottolineato questo aspetto di Biella che è molto importante. Settore giovanile di Biella, Marco. Posso ringraziare intanto, perché il fatto che questi complimenti arrivino da Cantù, oltretutto, dove c'è una rivalità, no, personalmente, che io non sento molto, ma i nostri tifosi sì, e mentre in realtà i rapporti miei personali e della società con la società di Cantù sono ottimi, storicamente ottimi, mi fa molto molto piacere. Beh, questo è un progetto che noi portiamo avanti da 4 anni con Federico Danna. In realtà è la nostra squadra juniores che fa la C2, faceva l'anno scorso, l'ha vinta ed è andata in C1, e quest'anno, pur essendo usciti di età tutti gli juniores, con i nuovi, quindi ancora più giovani, abbiamo affrontato la C1. È un modo importante, secondo me, di affrontare l'attività giovanile, perché consente, certo, di crescere, anche se devo dire abbiamo dovuto superare un sacco di ostacoli burocratici su questo progetto, perché poi se io ne ho uno bravo un po' più giovane non lo posso far giocare, solo le annate juniores hanno la deroga per poter fare questa cosa. È una grandissima esperienza, ci ha consentito di portare un ragazzo biellese come Tommaso Raspino a giocare in Serie A davvero, ed è uscito proprio da questo progetto che con Federico Danna comunque sta continuando e ci sta dando grandi soddisfazioni. La squadra si chiama Cestistica, nella C1, ma è la nostra squadra juniores. Che fa anche il campionato juniores. Ma quello è fondamentale, perché un nostro comune amico come Fabio Di Bella, che ha giocato da voi, con voi, certo, arrivati in Serie A, che è pavese come noi, che conosciamo da quando era bambino, insomma, la sua fortuna, abbiamo detto mille volte anche a lui o pubblicamente, è stata quella di riuscire a giocare ancora da ragazzino in campionati che fossero la Serie D, la Serie C, da protagonista, ed è lì che si cresce. Quindi in questo senso è fondamentale. È vero, io l'ho visto la crescita dei ragazzi a fare questi campionati, perché poi voi sapete che purtroppo il campionato juniores, soprattutto nelle fasi regionali, è un campionato, certo, di poche partite valide, e poi si arriva alle finali nazionali una volta all'anno, dove magari i ragazzi poi non sono neanche tanto preparati. Magari in Lombardia è diverso perché c'è una maggiore competitività, o in Emilia Romagna, ma per esempio in Piemonte giochi 2-3 partite, poi le altre sono partite di scarso significato. E quindi abbiamo scelto questa strada, e noi investiamo tanto sul vivaio. È il 10% del budget, che per noi sono soldi veri, e perché pensiamo che, al di là di tutto, una realtà piccola come questa, che ha un legame territoriale forte, non può non avere la mission di avere un settore giovanile che funziona. Adesso ci fermi, dimmi. Tutti 90 e 91, stavo guardando il roster, tutti 1990 e 91. È per forza, perché quella è l'età juniores. Sono bravi, sono bravi. Palla spicchi. Torniamo subito agli ascoltatori. Paola da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Presidente. Io volevo una curiosità, volevo sapere quale sarà il destino del coach Luca Becchi, perché sono tifosissima e vorrei insomma avere buone notizie, sapere che resta al Biella. Allora, il coach Luca Becchi è a Biella da ben 8 anni, quindi diciamo che sulla stima su Luca non c'è discussione. Siamo nella fase più delicata del campionato. Io e Luca siamo stati insieme un'ora ieri mattina a fare 4 chiacchiere, a parlare di futuro. Se ne parlerà alla fine dell'anno. Lui è in scadenza di contratto e quindi di queste cose non si parla fino a che non si sa come è finita la stagione. Io credo che lui possa anche ambire a posti più importanti di Biella. Vedremo, ne parleremo con grande serenità alla fine della stagione, sperando nel frattempo di esserci tolta qualche altra soddisfazione. E adesso magari perché volevo fare una domanda anche a livello dirigenziale, perché voi siete un esempio anche da questo punto di vista, perché non ci sono tante società che fanno crescere i dirigenti. Per esempio Daniele Baiesi, per non fare un nome, faceva il lavoro di addetto stampa all'inizio della sua carriera, credo anche tu, se non mi sbaglio. Io sono un giornalista, sarei un giornalista, facevo il giornalista professionista. La cosa è che in seno a voi si cresce anche da quel punto di vista lì, cioè c'è valutazione del lavoro e delle professionalità anche a livello dirigenziale. Beh, infatti quando Daniele è venuto da noi aveva 27 anni, l'ho presi, cioè, ne parlammo, gli offrì un lavoro di addetto stampa, ma con la prospettiva di diventare un dirigente 6 anni fa, direi che è diventato un ottimo dirigente, quindi sono contento. Ripeto, sono tutte cose che fanno parte, secondo me, della valutazione complessiva di un lavoro, no? Quindi lui è arrivato, è cresciuto, ha fatto bene, oggi credo che sia un conoscitore di giocatori, uno scout, un manager importante, ha visto e sa come funziona una società di Serie A, l'ha diretta egregiamente l'anno scorso e anche quest'anno per la sua parte, per la parte sportiva come manager, perché io mi devo occupare anche di tante altre cose, non sono tornato a fare quello che facevo prima e quindi credo che diciamo il movimento sia arricchito di un dirigente competente e molto brillante in più, bene. Poi ti chiedo anche se c'è spazio per salire altri gradini, perché prima abbiamo fatto la scala a casa di Tobiella, poi cioè, i tifosi di Biella vogliono saperlo, però prima, prima andiamo a Siena. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, premetto. Grazie. Mi serve 2 minutini, ma concedetemi perché non me li date mai a Siena un po' di voce. Come? Senta, no, volevo dire questo qui comunque, io ieri sera ho visto la partita anch'io, secondo me sì. Siena era addormentata. A un certo punto si è lavata agli occhi e poi ha fatto vedere comunque come squadra era più forte. Però premesso questo, non dimentichiamoci con CSKA, sia in casa, con il Panathinaikos soprattutto, sia Fene che in casa, e Siena è stata maltrattata dall'arbitro, sarebbero stati da impiccare. Ad ogni modo io volevo... Neanche tirare la roba in campo come è successo ieri a Bologna, perché non c'è un fischio che possa giustificare una bottiglietta. Comunque quello che volevo dire è che a Siena c'è un progetto ambizioso da parte di tutte le istituzioni che vanno dal comune allo sponsor tecnico. Abbiamo un allenatore costruito in casa, che Simone Pianigiani è di Siena, Ferdinando Minucci è di Siena. Io vorrei da giornali, non da voi personalmente, ma da giornalisti un po' più diciamo di risalto, perché Siena viene da 3 anni, l'anno scorso ha fatto 2 sconfitte, il record storico, probabilmente forse quest'anno farà addirittura fine campionato una sconfitta. Il settore giovanile sta portando avanti il Basket New Generation a giro per i palazzetti dello sport, c'è il settore giovanile a livello allievi, under 18 sono campioni d'Italia e sono comunque, c'è una tradizione, Massimo, cioè voglio dire, non c'è mai un articolo, chiudo dicendo che anche la finale con la partita con Panathinaikos era importantissima, sia Gazzetta dello Sport che Tutto Sport aveva un articolino piccolino sull'Eurolega e una paginata, uno sull'Otto Mafia e uno su Bologna. Io voglio dire, tanto di cappello al latte, però Massimo, un po' di risalto anche a Siena sta vincendo. Ma risalto, basta una parola, basta guardare il campo, Siena è la numero uno, ma non credo ci sia discussione da parte di nessuno su questo, ma è la numero uno da molti punti di vista. Ha costruito questo gruppo ed è stata bravissima a farlo crescere questo gruppo, e l'anima senese è comunque importantissima, come anche Marco Tripaldi sa bene. Ah, non c'è dubbio, ma io ho sempre detto che la difficoltà è vincere, ma poi è vincere di nuovo, no? La seconda volta, e la continuità che Siena sta mettendo la ferocia tra virgolette sportiva nel conseguire tutti questi risultati a ripetizione, perché io mi chiedo come fanno, lo dico sinceramente, a mantenere sempre alta la concentrazione. Adesso loro sono primi con 14 punti, 16 punti, sono primi matematici da 6 partite, cioè come si fa a partire, andare, che ne so, a Rieti e vincere la partita, no? Contro una squadra che magari sta lottando per salvarsi e che quindi mette in campo, e ad avere la concentrazione, ad avere sempre da uno diverso un rendimento, a riuscire a mantenere un gruppo e a inserire negli anni giocatori nuovi, e tutti questi fanno sempre bene e riescono, ecco, è molto più difficile che vincere il primo scudetto, certo, e stare sempre ad alto livello, quindi insomma credo che il progetto di Siena, poi gli amici di Siena si devono rassegnare su un punto: se vinci sempre è chiaro che poi cominci a dare fastidio, è chiaro che poi diventi l'avversario con le lettere maiucole, no? Quindi giochi contro Siena. Però ho sentito da loro, anche parlando con Ferdinando qualche volta, che il problema è che magari la grande stampa non apprezzi a sufficienza quello che loro stanno facendo, cioè un'impressione che magari loro hanno, io non so, credo che quello che loro stanno facendo è talmente grande ed evidente sotto gli occhi di tutti che insomma dovrebbero essere contentissimi. Guarda, e credo che abbiano soprattutto l'apprezzamento e il riconoscimento di tutti, giornalisti e grande stampa compresa. Ti dico la verità, noi nel nostro piccolissimo siamo anche un po' stufi di parlare di Siena, perché è nettamente la squadra di cui più parliamo, ma gli ascoltatori lo sanno. Ma perché? Perché l'Eurolega, perché i risultati, perché di Siena certamente noi non parliamo poco, ma questo insomma. Questo è Siena che ci spinge a parlare di loro. Luigi Milano. Sì, pronto. Dica. Mi sentite? Sì, sì, certo. No, io volevo... Mi sembra... Entro giusto in argomento. Io continuo a sentire una... Lo dico ormai, ho già chiamato un'altra volta. Secondo me invece la trasmissione è troppo incentrata sulle piccole società di provincia. Uno vuole bene a questo movimento del basket, sa molto bene, poi voi che siete professionisti, che qua non ci tiriamo su se non abbiamo invece che Siena, Milano, Roma, magari Torino, magari Genova, di nuovo una Bologna, come dire, come lo era ai tempi di Cazzola, mi sembra di ricordare. Sì. E quindi secondo me c'è questo continuo esultare, c'è queste piccole, per carità, con tutto rispetto possibile e immaginabile, però secondo me alla fine non, cioè rimaniamo sempre, come dire, alla provincia di impero. Io sono d'accordo con lei e con le primo punto. Parole storiche di Valerio Bianchini, il basket italiano, ma l'ho detto credo ad ogni puntata, le puntate sono ormai tante, ha bisogno delle grandi città, del grande pubblico, del grande traino, possibilmente di grandi personaggi, quelli che mancano. Però non possiamo dimenticare che comunque il midollo della nostra pallacanestro storicamente sta anche o forse soprattutto lontano dalle grandi metropoli, perché non a caso Bologna è diventata Basket City, non a caso Genova, da quando sono piccolo, sono passati un sacco di anni, sono state solo chiacchiere intorno al basket a Genova, ma non si è mai visto. A Torino è nato ed è sparito, a Napoli è nato ed è sparito anche troppe volte e per i motivi che ben conosciamo. Il midollo sta lì. Poi è chiaro che delle grandi metropoli avremo bisogno tutti, l'intero movimento avrebbe bisogno. Marco. Sì, ci mancherebbe altro, ma non sono due cose che, come dire, che non possono coesistere, ma no? Chiaro. Quindi credo che la forza di un movimento sia proprio quella di avere intanto i progetti nascono dove c'è terreno fertile per farli nascere, no? Quindi provincia, la grande città, benissimo, la grande città, ci mancherebbe altro, sono fondamentali, dove poi però c'è l'interesse della gente, dove c'è qualcuno che rischia, dove qualcuno mette in piedi un progetto, lo porta avanti con coraggio, con determinazione e lo fa diventare un progetto importante. Lo stesso vale per la provincia. Se ci fossero 16 metropoli fondamentali, tutte con grandi progetti, con bravi dirigenti, con pubblico affezionato, grandi sponsor e grande attenzione, probabilmente Biella sarebbe Serie C, e magari ci starebbe giusto, ma siccome, come dire, grazie a Dio lo sport non è fatto né dal numero degli abitanti né dal numero, ma è fatto dalla passione, dalla capacità, prima di tutto dall'entusiasmo che tu riesci a coagulare intorno a un tuo progetto, c'è anche Biella, c'è Milano. Milano fa meglio di Biella, ci mancherebbe altro, considerando quello che è, ma le cose possono coesistere. Io l'ho detto prima, speriamo che ci sia Torino, avremo certo il derby fra Torino e Biella, noi piccoli provinciali magari ci godremo la soddisfazione di vincere contro Torino. Sarebbe un'altra storia. Marco, noi ci fermiamo qui, ti ringraziamo per esserci venuto a trovare e ti aspettiamo ancora naturalmente. Grazie a voi, siete stati molto gentili. Grazie a Marco Tripaldi, presidente di Biella, Flavio Suardi qui vicino a me. A venerdì prossimo. A venerdì, Gigi Borghi in redazione, Filippo Oreggi in regia, lo sport domani pomeriggio alle 17, vi aspetto.